751 Elisir di china. Non tutte le ricette che io provo le espongo al pubblico. Molte ne scarto, perché non mi sembrano meritevoli. Ma questo elisir che mi ha soddisfatto molto ve lo descrivo. China peruviana contusa, grammi 50. Corteccia secca di arancio amaro contusa, grammi 5. Spirito di vino, grammi 700. Acqua, grammi 700. Zucchero bianco, grammi 300. Mescolate dapprima grammi 250 del detto spirito con grammi 150 della detta acqua. E in questa miscela mettete in infusione la china e la corteccia d'arancio, tenendola in luogo tiepido una diecina di giorni, agitando il vaso almeno una volta al giorno. Poi passatela da un pannolino strizzando forte, onde ne esca tutta la sostanza, e filtratela per la carta. Fatto ciò, sciogliete lo zucchero al fuoco nei rimanenti grammi 550 di acqua, senza farlo bollire, e passatelo dal setaccio, o meglio da un pannolino, per nettarlo da qualche impurità se vi fosse. Aggiungete i rimanenti grammi 450 di spirito, mescolate ogni cosa insieme e l'elisir sarà fatto. Prima di filtrarlo, assaggiatelo e se vi paresse troppo forte, aggiungete acqua.